Радио Акционе. Радио Акционе. Радио Акционе. Frequenze di azioni in diretta. Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazioni, letture, informazioni, musica. Azione in diretta. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazioni, letture, informazioni, musica. Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione. Radio Azione. Anni, Mark ed Aghi sono da poco tornati sul Vesuvio e ad attenderli ci sono gli altri refrattarios che aspettano notizie dai loro tre compagni riguardo alla situazione nella metropoli. Dopo l'incursione nelle case dei refrattarios non andata a buon fine, le massime autorità hanno dato ordine ai Tarspok di mettere sotto controllo tutti i media Tarspok. Gli stessi uffici di stampa e televisioni sono piantonati dagli uomini topo. I Tarspok controllano le persone che entrano ed escono e soprattutto in ogni ufficio viene allestita una sala censura. Ogni notizia prima di andare in stampa o in televisione viene approvata o censurata dai Tarspok. Esiste già il pericolo di una rivolta generale dopo la chiacchierata in diretta tra i Tarspok e media Tarspok e la scintilla potrebbe partire dagli stessi media dal momento che verranno a conoscenza della strage avvenuta in casa di Almi. I media hanno sempre fatto il bel tempo per i governanti e la Chiesa. Essi sanno come si manovrano le menti delle persone più di qualsiasi politico o prete. Potrebbe passare un giorno, al massimo due, di propaganda attraverso i loro mezzi per accendere la scintilla che farebbe molti più danni dell'incendio alla centrale. Le autorità e la Chiesa sanno che a breve dovranno affrontare la rabbia della popolazione e controllare i media Tarspok serve solo per prendere tempo e ragionare sulla controffensiva. Sono passati tre giorni dall'esplosione alla centrale e dalla strage in casa di Alni in cui sono morti due uomini topo e due media Tarspok. L'area nord di Nazaro 13 brucia ancora, anche se con meno intensità. La zona è spaccata in due da un lungo corso che porta fino a Nazaro 13. Da una parte del corso ci sono i ghetti con i palazzi dalle forme più squallide e dai colori spenti, edificati apposta così per renderli una sorta di prigione dove lo spaccio la fa da padrona. Dal marciapiede opposto a quella sorta di alveare fatto di case inizia l'area industriale, dove c'era la centrale del termovalorizzatore che è esplosa creando un vero e proprio inferno. Molta gente è morta respirando i gas che si sono sprigionati dall'esplosione. Chi cercava di fuggire è rimasto bloccato dalle fiamme che avevano circondato la zona e quindi sono morti asfissiati in strada, nelle auto, ma anche nelle case, nei negozi e negli scantinati. Il fumo e la pioggia di cenere radioattiva nascondono il già timido sole di un'alba di gennaio. La visione dagli elicotteri diventa, col passare delle ore, una scena sempre più agghiacciante. Si riescono a vedere sempre più morti in strada. Qualcuno sarà sopravvissuto anche per un paio di giorni, ma poi, non trovando via di fuga, si è arresa ai gas. Una strage silenziosa, se non fosse stato solo per il botto iniziale durato una frazione di secondi. Beatrice è sotto shock ancora per la scena vista in casa di Almi. Non è nemmeno andata a dare l'esame per paura di scendere quelle scale e passare di nuovo davanti alla casa di Almi. La ragazza, dopo aver bevuto il suo matè, infila lunghi capelli neri sotto il cappuccio di una felpa grigia, prende lo zainetto e dopo due giorni riesce ad uscire dal suo appartamento, approfittando che una telefonata anonima, arrivata il giorno prima in ospedale, avvisava di una sparatoria e dei morti nel palazzo. I cadaveri erano stati portati all'ospedale per l'autopsia, che ad occhio nudo non serviva a capire come fosse avvenuto il decesso delle vittime, ma era un modo per sviare i media Tarspok. Ora Beatrice ha un solo obiettivo, cercare Anni sperando che il ragazzo non torni a casa, mentre lei è in giro a cercarlo nei luoghi che di solito frequenta il refrattarius. Naviga intanto telefona alla televisione nazionale prima che vada in onda il telegiornale. Il generale è già da 10 minuti al telefono con il direttore Giusti, che fa molta fatica a credergli. Mi creda, lo prenderemo quel figlio di puttana. Non la passerà liscia questa volta, gli stacco i coglioni con le tenaglie prima di mandarla a marcire a Carcelia. Signor Navig, ma mi sbaglio o nelle case perquisite non c'era ombra di refrattarius? Se il ribello si fosse trovato in quella casa, con davanti i quattro Tarspok armati, poi due nostri uomini, e non so quanto sarebbe riuscito a fare una strage di quella portata. Inoltre è la casa dove il nostro uomo aveva dimenticato la telecamera accesa, la casa dove è venuto fuori qualcosa che a lei, a tutte le autorità e alla Chiesa non penso abbia fatto molto piacere. A cosa sta alludendo, dottor Giusti? Sta mica dicendo che siamo stati noi a fare la strage? E secondo lei noi avremmo ammazzato anche i nostri uomini? Per fare una cosa pulita bastava far sparire i due giornalisti appena andati via dall'appartamento, no? Non ho tempo da perdere, signor Navig. Mi dica lei come devo far raccontare la notizia. Cosa devo dire al giornalista che va in diretta tra mezz'ora? che ora i refrattari si trasformano anche in forma gassosa o è colpa di un fantasma? Semplice. Il refrattario si è tornato a casa e, non sapendo dell'incursione, quando ha notato i Talspok, ha aperto il fuoco insieme ad un suo complice. Sicuramente sarà andata così. Ok, agli ordini. La saluto, signor Navid. Diremo come ci ha riferito lei, ma ora la devo lasciare perché ho le ultime cose da mettere a posto per il telegiornale. Mi faccia sapere se ci sono sviluppi sia sulla strage che sull'esplosione alla centrale. Mi raccomando. Grazie a lei, detto Giusti, sarà mio dovere tenerla aggiornata su tutto. Un in bocca al lupo per il suo lavoro. Crepi il lupo. Appena agganciata la cornetta, il direttore del telegiornale nazionale esclama: e speriamo che crepi anche tu. Allora, con il block 57 abbiamo continuato dopo la lettura di Nazero 13, usuale ogni lunedì, giorno di controinformazione, ma soprattutto lettura e musica, ovviamente. Qualche riflessione ogni tanto ce la buttiamo anche noi. Ricordo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@dc.org per la mail, per chi vuole mandarci consigli sui libri da leggere, per chi vuole mandare materiale da far apparire sulla pagina, sul sito di Radiazione, che è radiazione.org, dove mandare critiche, complimenti, quelli sono sempre rari, rarissimi, come c'è rara, da antiquariato praticamente, molto più belle, ma anche le critiche, sono molto più belle le critiche, perché poi crea discussione, complimento, non crea discussione, non crea dibattito, quindi preferisco le critiche. Invece il sito, come dicevo, è radiazione.org, dove potete leggervi la controinformazione aggiornata quotidianamente, ascoltare la radio attraverso il flash player che trovate in sidebar, o il banner che trovate sul ogni giorno della diretta, che preannuncia l'ora della diretta d'azione, dove potete scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina download e riascoltare le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione al compagno di The Anarchist Library, che ringraziamo sempre, ovviamente. Ora ci ascoltiamo un brano degli Adult, Blank Eyed Noise Blade, e poi dopo si torna qui e si torna qui con il libro che stiamo leggendo, che abbiamo iniziato a leggere la settimana scorsa, lunedì scorsa, Edward Ebbe, I Sabotatori. di Adult Black Eyed Nosebleed, lunedì 7 aprile 2014, il 7 aprile a suo modo, una data storica. Ben arrivati, siamo giusto all'inizio di un ponte in aria e adesso ci stiamo addentrando tra di questa batteria per le prossime settimane. Seldon Sean Smith. Nato per caso da membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno, ovvero i Mormoni, Smith era in congedo sabbatico permanente dalla sua religione. Lui era un mormone selvatico. Un mormone selvatico sta a un mormone osservante come un cane bastardo sta a un tenero barboncino. I suoi legami con i padri fondatori della sua chiesa possono essere rintracciati nella più grande biblioteca genealogica del mondo, a Salt Lake City. Come alcuni dei suoi antenati, Smith praticava la poligamia. Aveva una moglie a Cedar City, Utah, una seconda a Bountiful, Utah, e una terza a Green River, sempre in Utah. Per passare dall'una all'altra, il viaggio in macchina era semplice. Il suo vero nome, all'anagrafe, era Joseph Fielding Smith, derivato da un nipote del fondatore martire, ma le mogli lo chiamavano Seldom Seen, visto di rado in italiano. È così che lo conoscevano tutti. Lo stesso giorno in cui George ha diretto a Lee's Ferry, Smith stava guidando da Cedar City, città di Katy, dopo aver trascorso la notte precedente a Bountiful, città di Sheila, diretto alla medesima destinazione. Sulla strada fece una sosta a un grande magazzino a Kanab per rifornirsi dell'equipaggiamento necessario per attraversare il Grand Canyon. 3 canotti da 10 remi, borse impermeabili e scatole di munizioni dell'esercito, tende, tela incerata, corde, un bel po' di altre cose e un assistente per aiutarlo ai remi. Apprese che, apparentemente, per raggiungere il punto di partenza a Lee's Ferry, bisogna anche di un autarsi il suo furgone da Lee's Ferry a Temple Bar, sul lago Mead, dove si sarebbe dovuta concludere infine la navigazione del canyon. E la trovò, con un accordo preventivo tra gli altri appassionati di rafting che bighellonavano intorno al grande magazzino del Grand Canyon Expeditions. Caricato tutto, tranne la ragazza, sul cassone del furgone, ripartì diretto alle Sferri via Page. Guidarono in direzione est attraverso la cartolina classica dello Utah, con cielo perfetto, montagne, mesas di rocce rosse, tavolati di rocce bianche e vecchie estrusioni vulcaniche. Il Molly's Nipple, il capezzolo di Molly per esempio, visibile dall'autostrada a 50 km a est di Kanab. Erano davvero pochi quelli che potevano vantarsi di essere saliti sulla punta del capezzolo di Molly. Il maggiore John Wesley Powell era uno, Seldom Sean Smith un altro. Quella cupola azzurra a sud-est, 80 km distante dalla linea degli orizzonti, è la Navajo Mountain, uno dei luoghi sacri della terra, l'ombelico di Dio, Om em Omphalos, sacro ai sciamani, streghe, maghi, fanatici frollati dal sole di santuari mistici come Kitts Hill, Dutch, Tuba City e Cambridge, Massachusetts. Tra Kanab, Utah, e Page, Arizona, 100 km di distanza non ci sono città né qualsivoglia abitazione umana, tranne un derelitto agglomerato di baracche di carta cratamata e container di blocchi di calcestruzzo chiamato Glen Canyon City. Glen Canyon City è costruita sulla speranza e la fantasia. Un cartello nell'unico negozio recita: una centrale elettrica da 40 milioni di dollari verrà presto costruita a 20 km da qui. Smith e la sua amica non si fermarono a Glen Canyon City. Nessuno si ferma a Glen Canyon City. Un giorno potrà diventare, come i suoi fondatori sperano e i suoi abitanti sognano, un alveare di attività e di cupidigia, ma oggi non resta che riportare i fatti. Glen Canyon City, divieto assoluto di scarico, marcisce e arrugginisce ai margini della strada come una Volkswagen bruciata, dimenticata in un posto pieno di erbacce per atrofia, illacrimata nella terra alcalina dello Utah. Molti passano, ma nessuno si ferma. Smith e l'amica le sfilarono davanti come api in volo, in viaggio verso il miele. «Ma che cos'era?» chiese lei. «Glen Canyon City». «No, volevo dire quello», indicando alle spalle. Lui guardò nello specchietto retrovisore. Te l'ho detto, è Glen Canyon City. Allora, ci sono continui problemi oggi con la radio. Rileggiamo per l'ennesima volta il testo. C'è il sole. Ho scritto pure una 013 ieri sera, quindi ci sono varie cose che non coincidono. Allora, ripartiamo con gli aggiornamenti del caso Security di giorno 1, 26 marzo, inizio del processo, con un ampio apparato di sicurezza che comprendeva anche cani antiesplosivo durante tutte le udienze fuori dall'aula e all'interno un significativo numero di gendarmi, la stampa e la presenza della vedova di Moiano tra il pubblico, attori del Tribunale dell'Assurdo. Come querelanti e accusatori ci sono il miserabile pubblico ministero Riccardo Pegna, il Ministero degli Interni, il Banco Security, il Banco Santander e gli avvocati di Paola Riveros, vedova del Capo Moiano. I compagni Freddy e Juan sono difesi dagli avvocati d'ufficio, mentre Marcello da un avvocato privato. Le accuse per cui si procede sono: assalto a Banco Santander ad Agustina del 26 luglio 2006, in cui è accusato solo Juan; assalto a Banco Santander ad Esmeralda Valparaíso del 5 settembre 2007, in cui sono accusati Juan, Freddy e Marcelo; assalto a Banco Security ad Agustina del 18 ottobre 2007, in cui sono accusati Juan, Freddy e Marcelo; omicidio di un poliziotto capo Moiano e tentato omicidio di un altro poliziotto capo Abarca. L'accusa materializza la sua vendetta contro la vita selvaggia di ogni compagno, chiedendo per Juan ergastolo più 20 anni più 20 anni per due rapine, la morte di Moiano e tentato omicidio durante la fuga. Per Marcello 18 anni che comprende due rapine, per Marcello 18 anni, per Freddy ergastolo più 15 anni per due rapine, la morte del capo Moiano e tentato omicidio durante la fuga. Ora, con tutto il palco a disposizione, le accuse di querelanti iniziano le loro dichiarazioni di apertura, momento procedurale del processo in cui cercano di dimostrare le loro tesi attraverso le prove con cui cercano di far condannare i compagni. La quantità di merda uscita dalla bocca dell'accusatore diventa rapidamente un discorso di difesa del dominio e un evidente giudizio politico e morale contro i compagni. Il procuratore Riccardo Pegna parla dei fatti come reati che sono parte della criminalità pura e dura e che vanno al di là di ogni giustificazione ideologica, balbettando che erano motivati solamente dal desiderio di ottenere soldi in modo facile per avidità e interessi personali. Dopo aver cercato di eliminare ogni connotazione politica al processo, alla persecuzione giudiziaria, alla storia di lotta degli accusati, al proprio ruolo di inquisitore democratico, parla degli imputati dicendo: gli imputati non collaborano e non credono nel sistema. Infatti durante l'indagine in questo processo non riconoscono la legittimità e la competenza di questo tribunale. Per loro il sistema è semplicemente il sistema oppressivo. In seguito è arrivato il turno di ciascuno degli accusatori e gli avvocati della vedova Moiano, che nel migliore dei toni militari hanno dichiarato in merito alla morte dello sbirro, in un atto patriottico offrendo la sua vita nell'esercizio delle sue funzioni professionali come garante dell'ordine e della sicurezza pubblica. Atto patriottico e doveri professionali non erano altro che difendere gli interessi e i soldi della banca. Tutto ciò è culminato in una quantità di parole riguardo allo stato emotivo della famiglia. La difesa intanto ha sottolineato che i compagni hanno vissuto il carcere preventivo più lungo della storia attraverso la nuova giustizia, ricordando che il processo iniziato dalla viziata giustizia militare come situazione eccezionale è completamente passato con tutte le sue prove e le testimonianze alla giustizia civile, senza che si sia potuto essere in grado di opporsi a qualsiasi cosa. Ricorda inoltre che i testimoni chiave hanno ricevuto benefici o vendette personali in cambio di testimonianze. Iniziano le dichiarazioni, si capita accusa ed ogni sbirro recita nello spettacolo stendendo il proprio curriculum della sua lunga carriera di repressore. Il primo sbirro, capo della OS9, dice che la ricerca degli assalitori al Banco Security è avvenuta grazie a delle foto scattate con il telefono da un cittadino. Poi parla di un'equipe di investigatori che hanno trovato delle similitudini nelle caratteristiche fisiche degli assalitori in un'altra rapina del 2007 a Valparaíso. Per questa rapina sarebbe stata usata una moto che un testimone ha notato riconoscendone il modello. Dopo una lunga ricerca sul modello della moto in tutto il Cile, l'equipe è arrivata ad indicare come proprietario il compagno Freddy, che in quella data aveva la motocicletta dal meccanico. Nel frattempo la polizia fa indagini sulle auto e moto rubate a Valparaíso ed arresta un certo Victor Jerez, denominato dagli sbirri Danny DeVito. Dopo l'arresto di Danny DeVito, Victor Jerez dice di aver riconosciuto il compagno Carlos Gutierrez Quirileo. In tempo record la polizia inizia a raccogliere e assemblare le foto, comprese quelle del compagno Juan Aliste, sostenendo che il compagno ha affrontato accuse per altre rapine in banca insieme a Carlos nel 2003, processo che poi Juan fu assolto. Infine un testimone dice di aver riconosciuto nelle foto dell'assalto anche il compagno Marcelo Villarroel, prigioniero politico tra gli anni 90 e 2000 e che non ha mai abbandonato le sue posizioni di lotta. Il testimone della polizia arriva addirittura a mostrare a capo Abarca, lo sbirro sopravvissuto, la foto di Juan dicendo di averlo riconosciuto subito. Prima di chiudere l'udienza per la burocrazia giudiziaria è necessario rivedere la detenzione preventiva di Juan e Freddy, mentre Marcello sta scontando una pena. Dopo una breve discussione, i tre giudici hanno rifiutato di dare gli arresti domiciliari ai compagni, prolungando così la già lunga detenzione preventiva in carcere. E questa era per quanto riguarda la prima udienza del processo per il caso Security. Speriamo che la radio sta andando bene ora, che non ci siano problemi. Ora ci ascoltiamo un brano che sono gli Scarlet Remain con il brano Bitter Cold in a Dry Season. Superarono la deviazione per la Wawip Marina. A chilometri di distanza giù per il lungo declivio di sabbia, roccia levicata, macchia nera, erba indiana e opunzie. Possono vedere un grappolo di edifici, un'area per roulotte, strade, banchine e gruppi di imbarcazioni sulla baia azzurra del lago. Il lago Powell, gioiello del Colorado, 300 chilometri di bacino circondato dalla roccia nuda. La morte azzurra lo chiamava Smith, come quello di Hyduck. Il suo cuore era pieno di salutare odio, perché anche lui ricordava qualcosa di diverso. Ricordava il fiume dorato scorrere verso il mare, ricordava che canyon battezzati Hidden Passage e Salvation e Last Chance, Forbidden and Twilight e tanti altri ancora, alcuni che non avevano mai avuto un nome. Ricordava gli strani imponenti anfiteatri chiamati il Tempio della Musica e la Cattedrale del Deserto. Tutte queste cose giacevano ormai sotto l'acqua morta del lago artificiale, gradualmente rate di limo che scivolava sul fondo. Come poteva dimenticare? Aveva già visto troppo. E così giunsero in mezzo a un flusso crescente di auto e mezzi pesanti, al ponte alla diga del Glen Canyon. Smith parcheggiò il suo furgone di fronte al Senator Carl. Lui e l'amica scesero e camminarono lungo l'alto del ponte. 200 metri sotto scorreva ciò che era rimasto nel fiume originario, le acque verdastre che emergevano attraverso prese d'aspirazione chiuse, turbine e tunnel dalla centrale elettrica alla base della diga. Gruppi di cavi elettrici, ognuno spesso come il braccio di un uomo, si arrampicavano sulle pareti del canyon lungo torri d'acciaio, si infilavano in un complesso sistema di stazioni, di trasformatori e sbucavano verso sud e ovest, in direzione di Albuquerque, Babilonia, Phoenix, Gomorra, Los Angeles, Sodoma, Las Vegas, Ninive, Tucson e le città della pianura. Risalendo il fiume dal ponte ci si trovava di fronte alla diga in un immenso scivolo di cemento che affondava per 200 metri in una facciata concava dal bordo della diga fino al prato di erba verde che copriva il tetto della centrale elettrica più in basso. La osservarono. La diga richiedeva attenzione. 792.000 tonnellate di 750 milioni di dollari. 4 anni Morrison Knudsen Inc., sponsorizzato dalla US, l'approvvigionamento idrico e idroelettrico federale americani. È troppo grande, commentò lei. Era lui. C'è un mo. Stavano guardando l'unica faccia a valle, la parte superiore della diga. Quella parte, sufficientemente larga per 4 camion a Euclid, era anche la più stretta della diga. Dall'alto si allargava scendendo a formare un cuneo rovesciato per bloccare il fiume Colorado. Alle spalle della diga l'acqua azzurra luccicava riflettendo il cielo terso, l'occhio fiero del giorno, e flottiglie di motoscafi giravano in tondo trascinando sciatori d'acqua. Da lontano arrivavano i gemiti o i grugniti dei motori, grida di gioia. «Tipo, come farai?» domandò lei. «Per chi stai lavorando?» fece lui. «Per te. Bene. E allora fatti venire in mente qualcosa. Potremmo pregare.» «Pregare?» disse Smith. «Ecco una cosa a cui non avevo mai pensato. Preghiamo per un piccolo terremoto di precisione proprio qui.» E Smith si inginocchiò. Lì sul marciapiede in cemento del ponte chinò il capo, chiuse gli occhi, congiunse i palmi delle mani in posizione di preghiera e pregò. Se non altro le sue labbra si stavano muovendo. Pregava alla luce del giorno con i turisti che gli sfilavano accanto in macchina. Oppure camminavano a piedi scattando foto. Qualcuno puntò l'apparecchio fotografico verso di lui. Una rangerette in uniforme girò la testa per guardarlo e aggrottò le sopracciglia. «Seldom», mormorò la ragazza imbarazzata, «stai dando spettacolo!» «Fai finta di non conoscermi», le sussurrò, «e stai pronta a correre. La terra potrebbe sollevarsi da un momento all'altro.» E tornò al suo solenne borbottio. «Blum, blum, blum, caro vecchio Dio», pregò. «Tu sai, e io so com'era qui prima che quei bastardi di Washington venissero a rovinare tutto. Ricordi il fiume, com'era gonfio e dorato in giugno quando le acque piovane scendevano dalle Rocky Mountains? Ricordi i cervi sulle barre di sabbia, gli aeroni azzurri tra i salici e i pesci gatto così grandi e saporiti, e come addentavano i resti del salame? Ricordi quel torrente che scendeva attraverso il Bridge Canyon? E il Forbidden Canyon com'era verde e freddo e limpido? Dio, ce n'è abbastanza per sentirsi male. E poi ricordi il vecchio Woody Edgel su Hyde che lo teneva accanto ai cavi? Ricordi quella dannata cosa? Ricordi le cataratte del Forty Mile Canyon? Beh, anche metà di quelle sono sparite. E adesso pure una parte dell'Escalante se n'è andata. Davis Gulch, Willow Canyon, Gregory Natural Bridge, Ten Mile. Ascolta, Dio, mi stai ascoltando? C'è qualcosa che puoi fare per me, Dio? Che ne dici di un piccolo terremoto di precisioni vecchio tipo sotto questa diga? D'accordo, yeah. Quando vuoi. Adesso per me andrebbe benissimo. Aspettò per un momento. La guardia forestale si stava avvicinando con un'aria scontenta. Seldom, c'è quella tipa che sta venendo da noi. Smith concluse la sua preghiera. D'accordo, Dio, vedo che non ti va di farlo adesso. Beh, tutto bene, fa come vuoi, sei tu il capo, ma noi non abbiamo più molto tempo. Fallo presto, dannazione. Amen. Signore! Smith sollevò la faccia dalle ginocchia sorridendo alla guardia. Signora? Mi spiace, signore, ma non può pregare qui. Questo è un luogo pubblico. È vero. È proprietà del governo degli Stati Uniti. Certo, signora. A Page abbiamo 13 chiese e se desidera pregare troverà certo quella della sua confessione. Certo, signora, c'è una chiesa paiute. Una che? Io sono un paiute intossicato. Strizzò l'occhio all'autista del suo furgone. Seldom, disse lei, andiamocene di qui. Dal ponte presero la strada che saliva al capoluogo verde di Page. Alcuni chilometri a sud-est si alzavano le ciminiere alte, oltre 200 metri della centrale Navajo, la centrale a carbone battezzata in onore di quegli indiani i cui polmoni erano stati minacciati da anidride solforosa, idrogeno solforato, protossido d'azoto, cenere volatile e altre particelle. Smith e l'amica mangiarono un boccone al Mom's Café. Poi andarono al supermercato Big Pig per un'ora di acquisti impegnativi. Lui doveva comprare da mangiare per sé, per il suo marinaio e 4 clienti per 14 giorni. Seldom Sin Smith lavorava nell'indotto del fiume. È quello il mercato del lavoro nelle province più remote. Era una guida professionista, fornitore di articoli da sopravvivenza, barcaiolo e spedizioniere. Il suo capitale in attrezzature consisteva fondamentalmente in cose come stivali di gomma, kayak, giubbotti salvagente, tende da montagna, motori fuori bordo, basti, mappe topografiche, sacchi impermeabili, specchietti segnaletici, corde d'arrampicata, kit contro il veleno dei serpenti, rum ad alta gradazione, canne da pesca con mosche artificiali e sacchi a pelo. È un furgone da una tonnellata con scaffalature per ogni prodotto e una scritta sulle insegne magnetiche affisse alle portiere. Spedizioni oltre il limite. Jos Smith Prop Height, Utah. A 20 piedi di profondità, in una lattiginosa luce verde, le cabine spettrali, i PUP scheletrici, le pompe della benzina fantasma di Height, Utah, brillavano debolmente attraverso lo schermo d'acqua. Gli angoli e i profili ammorbiditi della nebulosità sempre più intensa a mano che il limo lentamente si depositava. Erano ormai trascorsi anni da quando il lago Powell aveva sommerso Height, ma Smith non accettava di riconoscere nessun potere alieno. Le risorse tangibili erano secondarie. Il suo capitale base era immagazzinato nella testa e nei nervi, un corpo sostanzioso di conoscenze speciali, capacità speciali e atteggiamenti speciali. Chiedete a Smith e lui vi dirà. Height, Utah, risorgerà. Thank you. questi erano DK.com con il brano Neverland. Ora si ritorna alla controinformazione, sempre sperando che sia andato tutto bene, però da quanto vedo sì, facciamo, tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri, quando siamo superstiziosi. Allora, abbiamo letto prima la prima udienza per quanto riguarda il caso Security, ora leggeremo la seconda, la terza e la quarta. Seconda udienza, 27 marzo. Inizia con le dichiarazioni del capo della OS 9 dell'epoca, che afferma che tutte le indagini e la caccia fatta agli assalitori fu portata avanti con i suoi migliori uomini di fiducia, anche se in quella regione ci fossero bravi investigatori. Sulla domanda della difesa, lo SBIR ha confessato che gli fu chiesto di eliminare certe prove che avrebbero ostacolato la giustizia. Tali prove furono bruciate dallo stesso SBIR nel cortile della stazione di polizia. Dopo è stato il turno dell'addetto dell'analisi criminale della S9, che ha sostenuto di aver riconosciuto ad uno gli assalitori. Inoltre afferma che in quel periodo erano pervenute circa 300 chiamate da persone che volevano fornire informazioni e dati sui presunti assalitori del Banco Security e assassini di Moiano. Secondo la dichiarazione dell'analista criminale, ognuno di coloro che sono stati chiamati a testimoniare avrebbe rivelato qualcosa. Come terzo testimone, il capitano della OS 9, che aveva raccolto le dichiarazioni dei testimoni nelle strade, dove guarda caso ha incontrato uno specialista di moto a Santa Lucia che avrebbe riconosciuto la motocicletta. L'udienza 3 del 28 marzo, il capitano della OS 9 continua affermando che ha osservato altri video e immagini durante le indagini, telecamere, pedaggi, caselli, aggiungendo che durante lo scontro armato con Moiano un paio di sbirri della polizia investigativa stava passeggiando da quelle parti e ha deciso di intervenire nello scontro sparando. Dopo dichiara un maggiore, capo del Dipartimento di Crimini Violenti, che si è dedicato a guardare e segnalare le foto dei caselli e dei pedaggi, ma che non risulta nessuna infrazione da parte di veicoli in quelle ore. Il giorno 4, l'ultima udienza per cui è aggiornato per il momento il processo, quella del 29 marzo, il maggiore afferma che ha preso le dichiarazioni di Victor Jerez, primo detenuto accusato per l'assalto a Banco Security, all'interno della caserma OS9 senza la presenza di un avvocato difensore. Inoltre la difesa fa sapere che questi è lo stesso ufficiale che aveva indagato e perseguito nel 2003 i compagni Juan e Freddy, accusandoli di altre rapine in banca, processo in cui Juan è stato assolto. Infine, la nuova stella della procura culmina il suo show con un istrionico fare artistico, chiedendo a tutti coloro che erano in aula che ora è, cercando di far notare che la differenza di ore esatta è rilevante per i fatti dopo le contraddizioni degli orari presenti nelle fotografie dei caselli. Si chiude così la prima settimana del processo contro i compagni Juan Alliste, Freddy e Marcello Villarroel Fentavilla. Le udienze continuano da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16 nell'aura 801 all'ottavo piano dell'edificio D. Solidali con i compagni che stanno affrontando la vendetta del potere, freniamo il linciaggio legale, non dimentichiamo i nostri compagni in prigione. E questo era il assunto per quanto riguarda queste prime quattro giornate del processo per il caso Security. Sotto alla fine dell'articolo che trovate sul sito di Radiazione, oltre a esserci tradotto da Radiazione, sotto c'è il link per leggere tutto l'aggiornamento completo. Ci sono varie cose, era molto lungo, si è cercato di riportare le cose principali, altrimenti erano 10 pagine di traduzione. Quindi cliccate sulla fonte e vi accedete al sito che è stato creato apposta per il caso Security. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Arterior con il brano Body Hammer, e poi dopo si ritorna qui con i Sabotatori di Edward Abbey. Yeah. We'll be right back. Reddito lordo annuo di Smith l'anno precedente era stato di $44,521.95. Le spese totali, esclusi stipendi o salario per se stesso, erano arrivati a $34,010.05. Reddito netto, $10,511.90. Difficilmente adeguato per un onesto mormone non praticante, le sue 3 mogli, le sue 3 case e i 5 figli, praticamente un livello di povertà, ma tiravano avanti. Smith era convinto di vivere una buona vita. Il suo unico rimpianto era che il governo statunitense, lo Utah State Highway Department e un consorzio di compagnie petrolifere, minerarie e aziende pubbliche stavano cercando di distruggere l'ambiente in cui viveva, di estrometterlo dal mercato del lavoro e di ostruirgli la vista. Smith e la sua tista comprarono cibo per $685 che lui spagò in banconote sporche e umide. Non aveva mica fiducia nelle banche per avere tessere. Caricarono tutto sul furgone e si diressero fuori città per l'appuntamento all'East Ferry, nel vento occidentale che spazzava le sabbiose terre incolte coperte di roccia rossa del territorio indiano. Benvenuti a Navajo Land, dissero i cartelloni. E sulla faccia posteriore, arrivederci a presto. E il vento soffia, le nuvole di polvere scaturiscono dall'azzurro del deserto, sabbia chiara e terra rossa vengono trasportate sull'asfalto e gli arbusti di amaranto riempiono i letti dei ruscelli. Arrivederci a presto. La strada si piega intorno ad un'incavatura degli Eco Clives, dove hanno fatto esplodere la dinamite, e da qui scende per circa 400 metri fino al raccordo di Better Springs. Smith si fermò come suo solito alla sommità del passo per scendere dal furgone e contemplare il mondo sotto e oltre. Aveva osservato quella scena un centinaio di volte da quando era nato. Sapeva che avrebbe potuto farlo al massimo altre 100 volte. La ragazza lo raggiunse e gli si mise al fianco. Lui la cinse con un braccio e rimasero lì stretti, fianco a fianco, a fissare davanti e in basso l'immensità caliginosa. Smith era un uomo alto, dinoccolato, magro come un rastrello, difficile da trattare. Le sue braccia erano lunghe e sottili, le mani larghe, i piedi grandi, piatti e solidi. Aveva un naso simile a un becco, un grosso pomo d'Adamo, le orecchie come manici su una brocca, capelli schiariti dal sole come la tana di un topo, e un sorriso largo e generoso. A dispetto dei suoi 35 anni, si dava da fare per apparire la maggior parte del tempo come un adolescente. La fermezza dello sguardo tuttavia rivelava l'uomo che c'era in lui. Scesero nella parte più bassa del deserto, svoltarono a nord all'altezza di Better Springs e seguirono le orme e le tracce di Haidak, lattine di birra vuote ai margini della strada. Giù le seguirono verso la gola, girarono intorno ad una jeep parcheggiata sul ponte e avanti verso Lee's Ferry. Si fermarono a un tornante per dare un'occhiata al fiume e a ciò che era rimasto del vecchio incrocio. Non molto. I terreni dei campeggi lungo fiume erano stati cancellati da una cava di ghiaia. Al fine di amministrare, proteggere e valorizzare il fascino, la bellezza e la storia di Lee's Ferry, facilmente accessibile dal pubblico motorizzato, il Park Service aveva realizzato non soltanto una nuova strada asfaltata e la cava di ghiaia, ma anche una stazione dei ranger, un campeggio pavimentato, una torre dell'acqua rosa alta 30 metri, una linea elettrica, un'area da picnic pavimentata, un autoparco recintato e una discarica ufficiale, nonché una rampa di varo per le imbarcazioni con copertura in acciaio. L'area era stata affidata all'amministrazione del National Park Service allo scopo di proteggerla dal vandalismo e dallo sfruttamento commerciale. «Supponiamo che le tue preghiere vengano ascoltate», disse la ragazza interrompendo il silenzio. «Supponiamo che ci sia veramente un terremoto alla diga. Che cosa succederà a tutte le persone che sono lì?» «Quella diga», replicò Smith, «si trova 20 metri a monte e sono i 20 chilometri di canyon più tortuosi che tu abbia mai visto. Per arrivare laggiù l'acqua ci metterebbe un'ora. Affogheranno comunque», li avviserò per telefono. Supponiamo che Dio risponda alle tue preghiere nel mezzo della notte, supponiamo che alla diga muoiano tutti e che quindi non ci sia più nessuno in grado di lanciare l'allarme, allora come la mettiamo? Io non posso essere responsabile di un atto di Dio, darling. Le preghiere sono le tue. Smimoto, e puoi richiamare l'attenzione. Che cos'è? Rimasero in ascolto. Le sera si legge con la scura il fiume gorgogliano, percorsi complicati si una nel Grand Canyon. No, ascolta! Lontano, proiettato dalle falesie, un lamento sovrannaturale che si impennava e chetava, carico di lutto. Oh, si trattava di esultanza! Un coyote, tentò lei. No, un lupo! Sì, non avevo mai sentito parlare di lupi qui intorno. Lui sorrise. È vero, disse. E come dici, da queste parti di lupi non dovrebbero essercene più, dovrebbero essere spariti. Ma sei sicuro che fosse un lupo? Oh, sì. Si fermò per un istante ascoltando di nuovo. Adesso si sentiva solo il rumore del fiume in basso. Ma un lupo piuttosto strano. Che cosa vuoi dire? Voglio dire, uno di quei lupi ha due zampe. Lei lo fissò. Vuoi dire un umano? Più o meno, disse Smith. Si rimisero in marcia, superarono la stazione dei Ranger, la torre dell'acqua rosa, attraversarono il ruscello Paria fino alla rampa di varo sulle rive fangose del Colorado. Qui Smith parcheggiò il furgone, il portellone rivolto al fiume, e cominciò a tirare giù le sue imbarcazioni. La ragazza gli diede una mano, trascinarono i 3 canotti gonfiabili dal cassone e li spiegarono distendendoli sulla sabbia. Smith prese dalla scatola degli attrezzi una chiave a bussola, tolse una candela dal blocco motore e avvitò un adattatore sulla testa di un tubo per l'aria, accese il motore, gonfiando in questo modo le imbarcazioni. Insieme alla ragazza mise in acqua i gommoni, lasciando le prue a secco sulla riva, e li legarono con le lunghe funi al salice più vicino. Il sole calò, con i jeans bagnati rabbrividirono allorché una brezza fresca cominciò a soffiare lungo il canyon venendo dal freddo fiume verde. Prepariamoci qualcosa da mettere sotto i denti prima che diventi completamente buio, disse la ragazza. Ci puoi scommettere, darling? Smith allora giocherellò con il suo binocolo cercando qualcosa che credeva di aver visto muovendosi su un promontorio lontano sopra la gola. Scovò il suo obiettivo, aggiustando la messa a fuoco, individuò a 1 chilometro di distanza attraverso la nebbiolina del crepuscolo la sagoma di una jeep azzurra seminascosta sotto un piedistallo di roccia. Vide il tremolio di un piccolo fuoco da campo. Qualcosa si mosse ai margini del campo e allora spostò leggermente il binocolo e vide la figura di un uomo tarchiato e peloso, massiccio e nudo. L'uomo nudo teneva in mano una lattina di birra, con l'altra reggeva un binocolo vicino agli occhi, proprio come Smith. Ed era proprio Smith che stava osservando. I due si studiarono per un po' attraverso le lenti binocolari 7x35 con cui è impossibile fare l'occhiolino. Smith sollevò la mano accennando un saluto, l'altro rispose sollevando la sua lattina di birra. «Che cosa stai guardando?» chiese la ragazza. «Una specie di turista scuoiato. Fammi vedere!» E le passò il binocolo, le guardò. «Oddio, è nudo!» disse. «Mi sta salutando!» «Liz Ferry sta andando al diavolo!» disse Smith frugando tra le loro scorte. Questo non si discute. Dove abbiamo ficcato quella dannata cucina da campo? Ma quel tipo ha un'aria familiare, disse lei. Tutti gli uomini nudi hanno un'aria familiare, darling. Adesso sediamoci qui e vediamo che cosa riusciamo a trovare da mettere sotto i denti in questo casino. Si sedettero sulle scatole delle munizioni e cucinarono e consumarono il loro pasto frugale. Il fiume Colorado continuava la sua corsa. Dalla vallata giungeva il rombo costante delle rapide, dove un affluente, il Paria, stava scaricando da secoli le sue rocce nel letto del fiume. Nell'aria c'era odore di fango, pesci, salici e pioppi, buoni odori, marci e intensi, giù per il cuore del deserto. Smith e la sua amica non erano soli. Di tanto in tanto il traffico motorizzato tornava a far sentire il suo brusio dalla strada un 300 metri più in là. Turisti, amanti del rafting e pescatori richiamati dal porto turistico poco distante. Il piccolo e isolato fuoco di campo sul promontorio lontano a ovest era scomparso. Nella semioscurità rimasta, Smith non riusciva a cogliere nessun segnale dell'amico o nemico che fosse. Si infilò nella macchia per pisciare, scrutando i riflessi del fiume al buio, senza pensare più o meno a nulla. La sua mente era in folle. Quella notte lui e la sua amica avrebbero dormito sulla riva vicino ai canotti e all'attrezzatura. La mattina seguente, mentre preparava i gommoni per la discesa fluviale, la ragazza sarebbe andata a Page a prendere i passeggeri paganti che dovevano arrivare da Albuquerque in aereo alle 11. Nuovi clienti per oltre il limite: un certo dottor Alexander K. Sarvis e una signorina o signora o perfino signor B. Habzug. questi erano Girls and Glass con il brano $10 million. Ora si ripassa alla controinformazione con un testo che è stato preso dal sito dei compagni di Interarma, sito che è in due lingue, sia inglese che greco. Oltre il movimento L'Anarchia, si è deciso di prendere questo testo perché se ne condividono i contenuti, ovviamente, come anche premesso sul sito di Radiazione. Allora, leggiamo il testo. Oltre il movimento L'Anarchia, che inizia con una citazione di Renzo Novatore: il mondo è una chiesa laida e melmosa, ove tutti hanno un idolo da feticisticamente adorare ed un altare su cui sacrificarsi. Il movimento anarchico dovrebbe essere, tu penseresti, un progetto collettivo di realizzazione individuale e di libertà, di mutuo soccorso, solidarietà, comunicazione sincera e responsabilità individuale, di violenti attacchi contro le istituzioni, i dirigenti e le strutture di dominio e alienazione, contro la programmazione mentale e comportamento inconscio, contro la riproduzione della società autoritaria nelle nostre relazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Cosa c'entra il groviglio di gerarchie informali, racket ideologici, misere conventicole, ghetti identità, aspiranti leader, disonestà e pugnalate alle spalle che vediamo davanti a noi se andiamo a vedere gran parte dell'autoidentificatosi movimento anarchico? Molto poco, tranne forma. Chiaramente il movimento in generale è molto più interessato a proteggere le fortezze ideologiche, a reclutare i seguaci, preservando le comodità soffocanti delle loro scene e soprattutto a praticare un innocuo passatempo che è l'anarchia. Orizzontarsi cercando di trovare un punto di riferimento nel movimento può essere disorientante. Compagni giovani o nuovi, entrando nel movimento, o meglio dire nella scena, vengono spesso afferrati da uno dei marchi dei pacchetti preconfezionati politici o forzati di scegliere tra le false scelte di prodotti offerti, serviti da vari racket ideologici. Ogni qualvolta un sistema di idee viene strutturato con una situazione sovrana nel centro, assegnando un ruolo o dei compiti a te per il suo fine, questo sistema è un'ideologia. L'ideologia è un sistema di consapevolezza repressa in cui tu non sei più un individuo singolare con volontà propria, ma una componente, un ingranaggio. In questo modo, basato sulla merce, il mondo in questo, basato sulla merce, l'immagine della ribellione può essere solo un prodotto in più, proprio come possiamo mercificare, astrarre e sistematizzare le espressioni dei nostri pensieri e desideri in una forma alienata, mercificata, una forma intercambiabile, l'ideologia. In realtà molto più subdolo e pericoloso quando non siano consci di quello che stiamo facendo. Nelle varie organizzazioni ideologiche, nelle scene e nella gran parte dei media anarchici, una visione della realtà scarsamente condivisa viene imposta con dei parametri specifici. La libera comunicazione, che oltrepassa i confini del discorso interno, viene stroncata da attacchi verbali e scherni, dall'esclusione fisica, dall'allarmismo sulla repressione statale o non accettazione nella società o dal semplice dogmatico rifiuto di pensieri eretici. Come ogni stile di vita o identità del mercato democratico della società, anche l'anarchismo ha il suo pacchetto completo di comportamenti, opinioni, stili, attività e prodotti, tutto sotto comode etichette. Dovrei menzionare a questo punto come uno che si sente affine con gli altri di tendenze antisistema e insurrezionali di tutto il mondo, che sono consapevole che l'anarchismo insurrezionale o qualsiasi cosa può essere trasformato in un'ideologia allettante o più facilmente in una moda ostile. Recentemente questo si è dimostrato vero in certi ambienti, ma forse questo è dovuto all'influenza recuperatrice degli intellettuali di Dick Quinn e alla loro insurrezione che viene, un libro come L'Appello, che sembra aver influenzato molti giovani radicali, ma pare scritto da marxisti e in nessun modo appunto convalida la responsabilità individuale, la libera volontà, desideri e consapevolezza. La loro insurrezione può darsi che viene, la mia è arrivata e la rivolta individuale. Ora ci ascoltiamo un breve brano e poi dopo continuiamo con il testo. We'll be right back. Allora, continuiamo il testo che stavamo leggendo. Oltre il movimento, l'anarchia. Il messaggio collettivista dell'insurrezione che viene ha ben poco in comune con l'anarchia insurrezionale. La teoria rivoluzionaria fluisce dalla rivolta personale dell'individuo per appropriarsi della pienezza della vita, attaccando tutto ciò che ci controlla e ci sfrutta, trovando analogie e affinità con gli altri da cui sgorga la vera comune, gli amici e i complici della guerra di guerriglia contro la totalità della società autoritaria. Senza sistemi sovrani di moralità, di teoria, principi o astrazioni sociali che si pongono sopra l'individuo singolare, gli anarchici nichilisti attaccano tutti i sistemi, inclusi i sistemi di identità e di ideologia, come un ostacolo all'autorealizzazione. La lotta non si conduce solo contro il dominio del controllo dell'organizzazione sociale e la diffusa tranquillizzazione, ma anche contro un'ereditata programmazione repressiva e la forza della vita quotidiana. Per questo la nostra lotta è una tensione costante in cui ciò che dobbiamo distruggere e trascendere è molto più evidente rispetto a dove potremmo arrivare. Per alcuni, di fronte a questa realtà opprimente, è sufficiente trovare un'alternativa, un sistema sociale giusto e ragionevole, o utopia, nelle loro teste. Alcuni invece si aggrappano a questo come ad una piacevole terra di fantasia, mentre gli altri desiderano che la società cambi veramente e anche trovano, o più spesso, abboccano alla ricetta o programma, da A a B, per la trasformazione sociale, per programmare il sistema sociale. Questa è semplicemente una forma della consapevolezza repressiva sistemica. Spesso la pianificazione e la costruzione di questi sistemi sociali alternativi, inclusi quelli di molti anarchici, viene data in mano allo strato manageriale di questa società di classe, l'avanguardia responsabile della costante ristrutturazione sociale del mondo moderno. Democrazia sul posto di lavoro, la produzione decentralizzata, le tecnologie verdi, multiculturalismo e così avanti, tutto sperimentato dall'ordine dominante rafforzandolo. La teorizzazione dei sistemi sociali astratti e tutti i sistemi sociali sono basati sulle astrazioni, solamente rafforza il dominio, ma se parti dalla tua propria vita e rifiuti di essere una componente di alcunché, rifiuti di rappresentare gli altri e di essere rappresentato dagli altri, abbracciando la tua inscrutabile unicità, sapendo che tutto quello che ti succede nella vita sono delle scelte, allora rappresenti un pericolo per l'ordine e l'autorità, un microcosmo errante di anarchia. Questo è quindi un invito ad evitare le gerarchie occasionali e le conventicole del movimento ufficiale anarchico, ad evitare i sistemi ideologici e le identità politiche, per assaporare il piacere di pensare per se stessi, di seguire i propri desideri, la dignità di seguire per davvero, fino in fondo, qualunque incognita della verità, negazione e passione, senza collocare astrazioni sopra noi stessi. Nella guerra, fino alla fine, sono le scelte che contano e solo tu sei responsabile delle scelte che fai. Esamina i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri, cancella tutti i sistemi morali e ideologici che porti, sii cosciente che il buon senso, o piuttosto il razionalismo sociale condiviso, è più forte supporto dell'esistente. Non aver paura dove la tua lotta interna ed esterna ti porta, distruggere tutti gli idoli, soprattutto e particolarmente gli idoli rivoluzionari. DMP Dark Matter Publication, questa è la firma, è quella dei compagni di Dark Matter, in cui ultimamente uno di loro è morto, è stato riportato su vari siti anarchici. La reazione ha evitato di scriverlo, perché comunque fa diventare un necrologio anche una morte così casuale. È pesante, cioè, mi rifiuto di farlo. Una cosa è tipo un Sebastian che muore in una rapina, ma no, perché per svalutare le due identità. Però un compagno è morto durante una rapina, l'altro è morto, non si sa perché. Però tu volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere: negazione e passione nella guerra contano le scelte individuali. L'unica patente che ho mai preso è quella che mi ha consentito di guidare e continuo a guidare anche se me l'hanno tolta e non avendola, per cui no patenti. E quindi ti hanno tolto un'altra patente. Allora, ora ci ascoltiamo un brano degli Intravenous, il brano è Splinters, e poi dopo si torna qui con la lettura di Edward Bay, I Sabotatori. Origini quarta B. Abzug. Nessuna parentela con il senatore, ripeteva di continuo. Il che era soprattutto vero. Il suo nome di battesimo era Bonnie e veniva dal Bronx di New York, non da Brooklyn. Inoltre era mezza WASP, White Anglo Sexy Protestant. E il suo cognome prima del matrimonio era McComb. Quella traccia spiegava forse la ragione dei riflessi ramati dei lunghi, folti capelli color melassa di Bonnie, lasciati cadere in tutto il loro lucente splendore dalla corona della testa fino alla protuberanza delle natiche. Bonnie aveva 28 anni, ballerina con tanto allenamento alle spalle, era arrivata nel sud-ovest 7 anni prima, aggregata alla compagnia di un college, si era innamorata al primo sguardo. Delle montagne del deserto aveva lasciato la compagnia ad Albuquerque e proseguito lì l'università, laureandosi con lodi e onori per il mondo degli uffici di collocamento dei buoni pasto e degli appartamenti negli scantinati. Aveva lavorato come cameriera, come apprendista cassiera in una banca, come danzatrice nei nightclub, come receptionist negli studi medici, prima per uno psichiatra che si chiamava Young, poi per un urologo che si chiamava Glasscock, cazzo di vetro, infine per un chirurgo che si chiamava Service. E Service era stato il meno peggio di una trista serie. Era rimasta con lui e dopo 3 anni era ancora al suo posto nelle molteplici funzioni di impiegata, aiuto infermiera e autista. Lui era incapace di guidare un'auto nel traffico cittadino, anche se perfettamente a suo agio, con bisturi e pinze a tagliuzzare una cistifelle o ad asportare un calazio all'interno di una palpebra. Quando la moglie del dottore aveva perso la vita in un banale incidente, un aereo schiantato al suolo durante il decollo da Harfield, Bonnie lo aveva visto barcollare come un sonnambulo tra lo studio e il reparto per 8 giorni prima di rivolgersi a lei con una domanda nello sguardo. Aveva 21 anni più di lei, i suoi figli erano cresciuti e quindi se n'erano andati. Bonnie gli offrì tutta la consolazione che poteva, che non era poca, ma rifiutò l'offerta di matrimonio che arrivò un anno dopo quell'incidente. Preferiva, così disse, la relativa indipendenza, così pensava, al nubilato femminile. Sebbene rimanesse spesso a casa del dottore e lo accompagnasse nei suoi viaggi, non disdegnava di starsene a casa sua in un quartiere umile di Albuquerque. Casa sua era un emisfero di poliuretano pietrificato montato su un telaio geodetico di alluminio a buon mercato che poggiava, come un fungo pallido e troppo cresciuto, su un pezzo di terra con l'orticello di pomodori nel quartiere sbagliato o sud-occidentale della città. L'interno della cupola di Abzug mandava riflessi come il cuore di un geode, con sculture mobili argentate e lanterne elettriche fatte con lattine traforate appese al soffitto e gruppi di specchi cristallini e gingilli attaccati a caso sull'interno curvo nei giorni di sole. La singola parete traslucida sembrava accendersi, riempiendo di calore il suo spazio interiore. Di fianco al letto ad acqua di dimensioni piuttosto ridotte c'era uno scaffale carico di libri che formavano la libreria standard della ragazzina intellettuale che era stata. Le opere di Tolkien, Carlos Castaneda, Herman Hesse, Richard Brautigan, il libro dei cataloghi, Li Qing, l'almanacco dell'agricoltore, il libro tibetano dei morti. Qualche ragno si trascinava sulla saggezza di Fritz Perls, del professor Richard, Baba Ramdas Alpert, dermatteri solitari esploravano i nudi irrazionali di Laing, il padre dell'antipsichiatria, carassi dorati si aprivano la strada a piccoli morsi nella fredda melma di Buckminster Fuller. Lei era da una vita che non ne apriva più uno di quei libri. Ma la cosa più brillante che c'era nella cupola di Abzug era il suo cervello. Aveva troppo buon senso per perdere tempo con i cosmetici, anche se li provava tutti, con un'intelligenza troppo fine per lasciarsi violare dalle idee, aveva imparato che non stava cercando di trasformare se stessa. Si piaceva, ma qualcosa cercava, qualcosa di buono da fare. Il dottor Sarvis detestava le cupole geodetiche. Una parte eccessiva della campagna americana, pensava, era incistata con queste gigantesche palle da golf incassate. Le disprezzava come strutture fungoidi, astratte, aliene e inorganiche, simbolo e sintomo dell'epidemia della plastica, dell'era del pattume, the age of sciences and technologies. Ma amava Bonnie Abzug a dispetto della sua cupola, accettava con riconoscenza la relazione parziale e irregolare che gli concedeva. Non solo era meglio di niente, ma in molti casi era molto meglio di qualsiasi cosa. Lo stesso pensava lei. Il tessuto, diceva, della nostra struttura sociale viene lacerato da troppi individui disperatamente interdipendenti. Concordo, diceva il signor Sarvis. La nostra sola speranza è la catastrofe. E così tiravano avanti insieme la piccola arrogante e quel pancione rosa da orso. Da settimane, mesi, anni, periodicamente lui ripresentava la sua proposta di matrimonio, più per salvare la forma che per amore, forse che l'uno è più importante dell'altro, e regolarmente lei lo respingeva con fermezza ma tenerezza, a braccia aperte, con baci prolungati, con il suo amore tenero e moderato. Love me little, love me long, amami un po', amami per tanto. Gli altri uomini erano idioti osceni di prima grandezza. Il dottore era un adolescente attempato, ma era gentile e generoso e aveva bisogno di lei, e quando era con lei era davvero lì la maggior parte del tempo. Le sembrava che non le nascondesse nulla quando era con lei. Per 2 anni aveva vissuto e amato a fasi alterne il dottor Sarvis. C'era semplicemente questa tendenza ad andare avanti, lo facevano milioni di persone, e irritava un po' Bonnie che la sua laurea in francese, il suo giovane corpo in buona salute, la sua mente irrequieta e irritabili non le servissero a fare qualcosa di più impegnativo dell'aiutante d'ufficio e dell'amante part-time di un vedovo solitario. Eppure, quando ci pensava, che cosa voleva fare veramente? O essere? Aveva smesso di ballare la danza perché era troppo impegnativo, perché richiedeva una devozione quasi totale che non era disposta a concedere la più crudele tra le arti. Non sarebbe mai tornata, e questo era sicuro, nel mondo notturno dei night, con tutti quei detective della buon costume, periti d'assicurazioni e giovani goliardi seduti nella semioscurità con le loro depressioni, le loro birre, i loro fiacchi appetiti sessuali che sforzavano i bulbi oculari rovinandosi la vista per una sbirciata indegna, infame tra le cosce. E allora? L'istinto materno sembrava non funzionare nel suo caso, tranne che per il suo ruolo di madre del dottore Fare. Da madre a un uomo abbastanza vecchio da poter essere suo padre, il gap generazionale o viceversa. Il ladro di bambini. Chi è il ladro di bambini? Sono io, la ladra di bambini, e lui sta vivendo una sua seconda infanzia. Si era tirata su da sola gran parte della cupola, pagando un'assistenza tecnica solo per interventi di idraulica ed elettricità. La notte prima di traslocare aveva organizzato una cerimonia, una consacrazione della casa, una salmodia. Lei e le sue amiche avevano formato un cerchio intorno ad una piccola lampada a petrolio accesa, avevano intrecciato le loro lunghe goffe gambe americane in nudi semplici, la posizione del loto. Quindi le 6 americane della middle class educate al college si erano sedute sotto un marshmallow di plastica gonfiabile del XXI secolo e intonato una serie di antichi canti orientali che erano da tempo stati abbandonati dalla gente istruita delle nazioni da cui provenivano. Cantavano. Prani Padme Om. O come amava dire il dottor Service, Om Sweet Home. Per piccina che tu sia, era stato il dottore ad apprendere un saggio di ricamo sulla parete curvispaziale: Dio benedica la nostra cupola felice. Ma lui c'entrava di rado quando Bonnie non era con lui a casa sua o in uno dei suoi frequenti viaggi. Viveva da sola nel suo fungo, sola con il suo gatto, curava le sue piante in vaso, l'orticello con i pomodori sul retro, ascoltava le sue cassette, spolverava i libri mai letti e illeggibili, si spazzolava i meravigliosi capelli meditando, facendo esercizi, sollevando la faccia amabile e desiderabile verso l'impercettibile canto del sole, trascinandosi attraverso il tempo, attraverso lo spazio, attraverso tutte le cellule concatenate del suo io che si apriva. Dove vai? Adesso, Bonnie. Hai 28 anni e mezzo, Bonnie. Distrarsi, accompagnava il suo buon dottore nelle sue escursioni notturne di ristrutturazione dell'arredo autostradale, assistendolo dapprima come autista e palo. Ma quando non ne poterono più del fuoco, lei imparò a fare la sua parte a una delle due estremità della motosega. Imparò come far roteare un'ascia e come colpire i sostegni verticali di un tabellone in modo da farlo cadere nella direzione voluta. Quando il dottore comprò una motosega portatile McCulloch, lei imparò ad usare anche quella, a farla partire, a oliarla e rifornirla di benzina, a regolare la catena quando diventava troppo tirata o troppo lenta. Con questa utilissima attrezzatura furono in grado di svolgere una maggior mole di lavoro in un tempo limitato, anche se ciò sollevava la questione ecologica. Comunque la si intenda, del rumore, dell'inquinamento dell'aria, dell'eccessivo consumo di metallo, di energie, ramificazioni infinite. No, disse il dottore, dimentica tutto il resto, il nostro compito è distruggere i tabelloni. E continuarono. Figure furtive nella notte, la sinistra Lincoln nera con il suo caduceo d'argento Sopra la targa, la grande automobile parcheggiata con il motore acceso in buie strade secondarie nei pressi delle principali arterie autostradali. L'uomo massiccio e la donna minuta che scavalcavano recinzioni scivolavano attraverso le erbacce, trascinandosi appresso alla motosega e la tanica di benzina. Divennero forme e odori familiari per i cittadini e le civette. Un grosso irritante mistero per le agenzie di affissioni pubblicitarie e la squadra investigativa speciale dell'ufficio dello sceriffo della contea di Bernaviglio. Qualcuno doveva occuparsene. La stampa locale parlò dapprima di vandalismo fino a se stesso. In seguito, nella convinzione che la pubblicità potesse solamente incoraggiare i vandali, per un certo periodo furono banditi dalle pagine dei giornali gli articoli che trattavano di questi incidenti, ma quando i pubblicitari, gli agenti della stradale e gli sceriffi di contea si resero conto che si trattava di attacchi ripetuti alla proprietà privata e con obiettivi mirati, i commenti ripresero. Fotografie e storie tornarono a riempire le pagine del Journal di Albuquerque, del New Mexican di Santa Fe, del News di Taos, del Bugle di Belen, non Rodrigo. Lo sceriffo della contea di Bernaviglio smentì la notizia di aver assegnato il caso ad un detective. I responsabili delle campagne sui tabelloni intervistati parlavano di criminali comuni, come le rapine in Cile. Lettere anonime che rivendicavano tutte le paternità degli attentati comparvero nelle caselle della posta di alti papaveri della città e della contea. Le storie pubblicate sui giornali citavano bande organizzate di attivisti ambientalisti, una frase presto sintetizzata nel più comodo e coreografico: Eco Riders on Storm. I legali della contea avvertirono che i responsabili di questi atti illegali sarebbero stati perseguiti a termini di legge, senza tregua. Nelle rubriche di lettere al direttore apparvero contributi dai toni accesi pro e contro. Doc Service gongolava dietro la sua mascherina, ricucendo la pancia gialla di uno straniero. La ragazza sorrideva leggendo i giornali vicino al fuoco della sera. Era un po' come celebrare Halloween per tutto l'anno. Era qualcosa da fare. Per la prima volta da anni, Bonnie sentì l'emozione chiamata delizia nel suo freddo cuore del Bronx. Stava imparando di nuovo la solida soddisfazione di un buon lavoro ben fatto. Gli uomini dei tabelloni tracciavano grafici, valutavano i costi, sfornavano nuovi progetti, ordinavano nuovi materiali, cominciarono a circolare voci sulla possibile elettrificazione dei pali di sostegno. Ci fu chi suggerì persino di ricorrere alle armi, di mettere guardie armate, di premiare i vigilantes, ma i tabelloni erano sparsi lungo tutte le autostrade per centinaia di chilometri attraverso il New Mexico. Dove e quando i criminali avrebbero attaccato la prossima volta, nessuno era in grado di prevederlo. Ci sarebbe voluta una guardia per ogni tabellone. Venne deciso un passaggio graduale all'acciaio. I costi supplementari naturalmente lo sarebbero stati scaricati sui consumatori. Una notte Bonnie e Doc uscirono spingendosi nella parte settentrionale della città per colpire l'obiettivo che avevano scelto settimane prima. Parcheggiarono l'auto vicino ad un'uscita dell'autostrada, ma in modo che non si potesse vedere, quindi tornarono sui loro passi per mezzo chilometro verso il loro obiettivo. Le consuete precauzioni. Come sempre lui portava la motosega, lei faceva strada, aveva una visione notturna migliore. Avanzarono incespicando nell'oscurità, illuminati solo dalle stelle, seguendo la recinzione. Il traffico scorreva indifferente sull'arteria a quattro corsie, frenetico e veloce come sempre, seguendo singole traiettorie di luce attraverso il buio, dimentico di tutto tranne che della necessità di fare in fretta, di arrivare là da qualche parte, ovunque. Bonnie e Doc ignoravano i motori fanatici, si disinteressavano alle menti e ai corpi umani che schizzavano lì vicino, non prestavano loro alcuna attenzione, e perché avrebbero dovuto? stavano lavorando. Giunsero all'obiettivo. Sembrava uguale a come lo ricordavano. A lettere cubitali. Piccoli ranch con vista sui monti. Il modo nuovo di domani per vivere oggi. Horizon Land and Development Corporation. Bello, disse lei appoggiandosi a un ansimante Doc. Bello, concordò lui dopo essersi riposato un istante. Appoggiò la sua motosega McCulloch, si inginocchiò e fece scattare l'interruttore e diede un discreto strattone alla corda dell'avviamento. Il vivace motorino si svegliò con un brontolio. La perfida lama scivolò in avanti lungo la scalanatura. Lui si alzò, la macchina che vibrava tra le sue mani, avido di distruzione. Premette il pulsante della lubrificazione, mandò su di giri il motore e avanzò verso il palo di sostegno del tabellone. Aspetta, disse Bonnie. Era appoggiata contro il palo centrale e ci picchiettava contro le nocche. Aspetta un minuto. Lui non la sentì, aumentò al massimo la potenza e piazzò la lama contro il palo. La motosega rimbalzò con uno strido di acciaio, una pioggia di scintille. Doc rimase confuso per un istante, incapace di accettare ciò che aveva visto e sentito. Poi spense il motore. Una quiete ferita dalla notte, i visi pallidi si fissarono nel bagliore. Doc, fece lei, ti avevo detto di aspettare. Acciaio, disse lui e passò interrogativamente una mano lungo il palo, colpendolo con il suo grosso pugno. Ecco cos'è. Restarono lì, uno di fronte all'altra, ognuno immerso nei suoi pensieri. Dopo un momento lei riprese. Sai che cosa voglio per il mio compleanno? Cosa? Voglio una fiamma ossidica con gli occhiali da saldatore. E quando? Quando è il tuo compleanno? Domani. Ma domani non è il tuo compleanno. E allora? La notte seguente erano di nuovo lì, nello stesso posto, sotto lo stesso cartellone, questa volta adeguatamente equipaggiati. La torcia funzionò perfettamente. L'intensa fiammata bluastra leccava silenziosa e furiosa l'acciaio, provocando un'orrenda ferita rossa incandescente, ma nell'oscurità il bagliore sembrava pericolosamente cospicuo. Doc abbassò la fiamma verso la base del palo centrale, nel punto in cui emergeva dal terreno desertico pietroso, giù tra i cespugli di amaranto. Anche così la fiamma sembrava davvero troppo forte. Bonnie si accovacciò e aprì il suo impermeabile, cercando di nascondere alla vista del traffico di passaggio. Nessuno sembrava in effetti aver notato nulla, nessuno si fermò. Le auto incuranti, i camion rombanti, tutto scorreva con il vizioso sibilo della gomma. Folli ruggiti di motori correvano nel nero oblio nella notte. Forse non gliene fregava niente a nessuno. La fiamma ossidica era letale ma lenta. Le molecole dell'acciaio allentavano i loro legami con fatica, riluttanti e restie a dividersi. La ferita rossa si allargava lentamente, lentamente, anche se, come previsto, il palo era cavo. La fiamma ossidrica era lenta ma letale. Doc e la ragazza lavorarono senza sosta, dandosi il cambio di tanto in tanto. Pazienza, pazienza. La lega spessa cominciava finalmente a cedere alla fiamma. I progressi diventarono evidenti, ovvi, conclusivi. Doc spense la fiamma. Si tolse gli occhiali da saldatore, si deterse il sopracciglio dal sudore. L'oscurità si chiuse su di loro, benvenuta. Adesso cadrà, disse lui. Il palo centrale era completamente tagliato, quelli laterali lo erano per almeno due terzi. Quello che teneva in piedi l'enorme cartellone era soprattutto il proprio peso in equilibrio precario. Una brezza del sud lo avrebbe fatto oscillare, un bimbo avrebbe potuto abbatterlo. All'interno del suo continuum spazio-temporale gravitazionale il destino del tabellone era segnato, inappellabile. L'arco del suo ritorno alla Terra si sarebbe potuto calcolare con una tolleranza massima di 3 mm. Assaporarono il momento, le virtù intrinseche dell'impresa libera e meritevole, il fantasma del leader sindacalista Sam Gombers. Il leader dell'American Federation of Labor, infame traditore, sorrideva sopra la loro opera. «Buttalo giù», disse Doc. «Tu», rispose lei, «il grosso del lavoro l'hai fatto tu, è il tuo compleanno». E allora Bonnie piazzò le sue piccole mani scure contro il bordo inferiore del cartellone, sopra la sua testa, arrivandoci a fatica, e spinse. Il tabellone, qualcosa come 5 tonnellate di acciaio, legno, vernice, dadi e bulloni, produsse un piccolo gemito di protesta e cominciò infine a piegarsi. Un'ondata d'aria, poi la tonante collisione del tabellone con la terra, il boato di metallo, lo sforzo e la torsione dei bulloni che saltavano, un fungo di polvere, nient'altro. Il traffico scorreva indifferente, senza guardare, senza preoccuparsi, imperturbabile. Andarono a festeggiare alla piattaforma girevole dello Skyroom Grill. «Voglio una cena di ringraziamento!» «Ma non è la festa del ringraziamento!» «Beh, se voglio una cena di ringraziamento, deve essere per forza il ringraziamento!» «Beh, non fa una grinza, chiama il cameriere, non ci crederà!» «Cercheremo di farlo ragionare!» Ragionarono insieme, arrivò il cibo, arrivò il vino, mangiarono, lui versò, bevvero, l'ora si tirò pigra verso l'eternità, Doc parlò. «Abzug!» disse il dottore. «Ti amo.» «Quanto?» fece lei. «Troppo.» «Non è mica abbastanza.» Yeah. Charlie Ray o Ray Charles, o qualcuno alla tastiera bianco avorio suonava Love Gets in Your Eyes, pianissimo. La sala circolare al decimo piano girava a 0,5 km l'ora tutte le luci della notte della grande Albuquerque, New Mexico, 300.000 anime. Si stendevano sotto di loro il regno di neon, giardini elettrici di splendore babilonese circondati dal brullo buio, sporco deserto che non avrebbe mai preso forma, dove i magri affamate coyote si rintanavano refrattari all'estinzione, le moffette, i serpenti, gli insetti, i vermi. Sposami, disse lui. E perché? Non lo so, mi piacciono le cerimonie. E perché rovinare una relazione che funziona così bene? Io sono un trinciapulo di metà età, solo. Ho bisogno di sicurezza, mi piace l'idea dell'impegno. Ma è quello che fanno i pazzi. Tu sei pazzo, Doc? Non lo so. Beh, dai, andiamo a dormire, sono stanca. Mi amerai ancora quando sono vecchio? Le chiese, riempendole di nuovo il bicchiere con la tace rosso rubino. Mi amerai ancora quando sarò vecchio, pelato, grasso e impotente? Sei già vecchio, pelato, grasso e impotente, ma ricco, non dimenticarlo. Mi ameresti lo stesso se fossi povero? Difficile. Un catorcio ubriaco con la barba sfatta che fruga tra i bidoni dell'immondizia in South First Street con tutti i cani che gli abbaiano contro furiosi. Ricercato dei piedi piatti? No. No. Le prese la mano, la sinistra, che era abbandonata sul tavolo argento e turchese, brillavano generosi sul suo polso sottile. La gioielleria indiana piaceva a entrambi. Si sorrisero a vicenda nella tremula luce delle candele in una grande sala circolare che girava su binari, ruotando lenta oggi sopra la città di domani. Buon vecchio Doc. Lei conosceva a memoria ogni bernoccolo della sua testa bulbosa, ogni macchiolina sulla sua zucca bruciata dal sole, ogni singola piega su quella mappa di circa 50 anni che avevano concordato di disegnare insieme come facce di Doc Service. Lei comprendeva i suoi desideri piuttosto bene e lo aiutava in tutti i modi possibili. Tornarono a casa nel vecchio cumulo di rocce di F.L. Bright che Doc aveva ai piedi della collina. Doc salì al piano superiore, lei piazzò una pila di dischi di vinili suoi sull'alberino del piatto del giradischi quadrifonico di lui. Dai quattro altoparlanti uscirono il ritmo incalzante, le distorsioni elettroniche, le voci stilizzate di quattro giovani depravati uniti nel canto, un qualche brucco, i Conks, gli Scrubs, gli Hateful Dead o i Green Crotch, che si portava a casa circa 2 milioni di dollari l'anno. Doc ridiscese con indosso l'accappatoio. Stai ancora ascoltando quella dannata imitazione di musica nera? A me piace. Quella musica da schiavi. Non sono l'unica a cui piace. Per esempio, piace a tutti tranne che a te. Eccita le piante, lo sai, uccide i gerani. Oddio, e va bene. Sospirò e cambiò disco. Andarono a letto. Da sotto salivano le gentili, discrete e melanconiche note di Mozart. Anche tu sei troppo vecchia per quel genere di rumore, stava dicendo Doc, con tutti quei suoni da adolescenti e musica bubblegum. Adesso sei una ragazza cresciuta. Beh, a me piace. Dopo che sono andato a lavorare, ok? Allora puoi ascoltarla tutto il santo giorno quanto ti pare, ok? Siamo a casa tua, Doc. È anche tua. Ma dobbiamo tenere conto delle piante nei vasi. Attraverso la porta finestra aperta della camera da letto, oltre la terrazza del primo piano, a chilometri di distanza giù per il piano inclinato del deserto, potevano vedere il baluginio della grande città. Gli aeroplani volteggiavano agilmente, silenziosi, sopra il fulgore metropolitano, tranquilli come lucciole lontane, lunghi raggi di luce si slanciavano nel buio scrutando le nuvole. Le mani di Doc erano su di lei, che rimaneva immobile, sonnecchiante tra le sue braccia, in attese. Fecero l'amore per un po'. «Un tempo lo facevo tutta la notte», disse Doc, «adesso mi ci vuole tutta la notte per farlo». «Ci metti un po' a venire», lo rassicurò, «ma arrivi alla fine». Si concedettero un riposo. «Che ne diresti di un bel giro sul fiume?» chiese lui. «È da mesi che me lo prometti. Stavolta faccio sul serio. Quando? Molto presto. E com'è che ti è venuto in mente?» «Ho sentito il suo richiamo». «Ma era lo sciacquone», disse lei. «Si è bloccato di nuovo». La ragazza è anche una gran camminatrice. Con maglietta dell'esercito, pantaloncini corti, cappellaccio da boscaiolo e scarponi con il carro armato, attraversava da sola le montagne intorno ad Albuquerque, la catena rosa della Sandia, o vagabondava per i vulcani ad ovest della città. Non possedeva un'auto propria, ma con la sua bici con il cambio a volte pedalava per 80 km a nord verso Santa Fe, lo zaino in spalla, e poi lì si inerpicava su per le vere montagne, le Sangre de Cristo Mountains, fino al punto in cui terminava la strada asfaltata e proseguiva a piedi su per i picchi Baldy, Truchas, Wheeler, campeggiando per 2 o 3 notti di fila, mentre l'orso bruno, quell'orso bruno chissà dov'era, sbuffava intorno alla sua minuscola tenda canadese e i puma urlavano. Effettuava ricerche, cacciava, digiunava ai margini della messa, aspettando una visione, e digiunava ancora, e dopo un po' appariva Dio incarnato su un piatto di legno come un piccioncino arrostito, con i calzini di carta bianca infilati come guarnizioni sulle sue dell'altissimo coscette. Doc continuò a bofonchiare qualcosa a proposito del fiume, a proposito del Grand Canyon, a proposito di un posto chiamato Lee's Ferry, di un uomo del fiume di nome Sheldon Smith. «Quando vuoi». Nel frattempo abbatterono, incendiarono, cancellarono e mutilarono tanti altri tabelloni. «Roba da ragazzi», si lamentava il buon dottore. «Dobbiamo trovare cose più eleganti, lo sai, mia cara, che qui vicino a Shinprock abbiamo la più grande miniera a cielo aperto degli Stati Uniti. Hai mai pensato da dove arriva tutto questo smog che intasa la vallata di quel maledetto Rio Grande, il grande fiume di Paul Organ, incalanato, alimentato, salinizzato, che scorre nei campi di cotone sotto il cielo sul furo del New Mexico? Lo sapevi che un consorzio di aziende elettriche e agenzie governative hanno già messo in cantiere l'apertura di altre miniere a cielo aperto e la costruzione di altre centrali a carbone nello stesso rettangolo da dove già arriva tutto questo schifo? Insieme ad altre strade, linee elettriche, ferrovie, tubazioni, tutto ciò in quello che un tempo era territorio quasi vergine ed è ancora oggi il paesaggio più spettacolare dei nostri maledetti 48 stati degli Stati Uniti. Lo sapevi? E lei disse: una volta anch'io ero quasi vergine. Ma lo sapevi che le altre aziende elettriche, le stesse agenzie governative stanno pianificando cose persino più grandi per l'area Wyoming-Montana? Miniere a cielo aperto persino più grandi di quelle che hanno devastato l'Appalachi, i monti Appalachi. Hai mai riflettuto sull'energia nucleare? Sui reattori autofertilizzanti? Stronzio, plutonio! Lo sapevi che le compagnie petrolifere si stanno preparando a sventrare vaste aree dello Utah e del Colorado per estrarre petrolio dallo scisto bituminoso, facendo finta di essere green economy, oggi aggiungiamo? Hai idea di che cosa stanno facendo le società che si occupano del taglio e del trasporto di legname alle nostre foreste nazionali, di quello che l'Ordine degli Ingegneri e l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e idroelettrico stanno facendo ai nostri torrenti, ai nostri fiumi, i ranger, i guardiacaccia, la nostra fauna, la nostra flora? Ti Ti rendi conto di quello che i costruttori stanno facendo di ciò che è rimasto dei nostri spazi aperti? Lo sai che Albuquerque, prima di diventare la casa di Breaking Bad, da un agglomerato come Düsseldorf, Dortmund, Essen in Europa occidentale, è lo stesso per Tucson e Phoenix, Seattle e Portland, San Diego e Santa Barbara, Miami e St. Augustine, Baltimora, Fort Worth e... Stai parlando del futuro, disse lei. Non farti prendere dal panico, Doc. Panico, disse lui. Pandemonio. Pan. Risorgerà, tesoro, il grande dio Pan. Ma Nietzsche ha detto che Dio è morto. Ma io sto parlando di Pan, il mio dio. Dio è morto. Il mio dio è vivo e scalcia. Mi spiace per i tuoi. Mi sto annoiando, si lamentò lei. Fammi divertire. E che ne diresti di un giro sul fiume? Quale fiume? Giù, per il fiume, attraverso il God's Gulch, su un gommone con marinai ai tanti villosi e sudati che pendono dalla tua mano e dalla tua bocca. Bonnie sollevò le spalle. Beh, e allora? Che cosa stiamo aspettando? Con oggi si chiude qui la diretta d'azione, siamo andati un pochino più avanti perché abbiamo recuperato un po' di tempo perso tra le varie, tra i vari problemi, connessione, server, non si capisce cosa era successo, quindi siamo arrivati fino alle 7:30, ma comunque... E se qualcuno mai si fosse messo fra di noi, tutti i soldi che guadagna li deve spendere in medicine. Medicine. Specialmente cardiopatiche o tumorali, ancora meglio, peggio tumorali. Che esiste il peggio. E allora ricordiamo che la prossima diretta d'azione è venerdì 11 aprile, mentre per la lettura lunedì prossimo non ci sarà, però troveremo una soluzione e verrà annunciata attraverso il sito di Radiazione. Vediamo il giorno in cui si può recuperare questa diretta. Allora ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@radiocc.org per la mail, per chi vuole mandare mail, consigli, critiche, materiale da scaricare attraverso Radiazione nella pagina download, quindi gratuitamente. Il blog è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete ascoltarvi le vecchie dirette d'azione attraverso i podcast, scaricare materiale attraverso la pagina download, oppure con il lettore flash player ascoltare la diretta d'azione del lunedì e il venerdì alle ore 17. Per venerdì prossimo la diretta è alle ore 17, quindi è confermato. Per lunedì, quella di lunedì prossimo, che sicuramente non ci sarà, verrà stabilito giorno, ora finisce. Però forse preparatevi a sabato 12. A fine radio ci aggiorniamo, vediamo un po' quanto recuperare. La radio trasmette su anarchia.net, sì, ho pronunciato bene. E ascoltateci e leggeteci. Il server è messo a disposizione dalla compagna di Anarchist Library, che ringraziamo sempre. Ora vi lascio con un brano dei Liederkranz, cioè l'esperto tedesco qui a fianco a me, con il brano The River, e poi ci sentiamo venerdì.